Ex direttore finanziario del San Raffaele a Milano, nuove perquisizioni anche nell'inchiesta Penati. Italiano, il treno più veloce al mondo, il presidente Napolitano, le imprese investano di più nel nostro paese. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Slittano, dunque lo avete sentito, le liberalizzazioni per i taxi, ma spariscono le province, ci sono novità per pensioni e anche per la casa. Insomma, la manovra Monti è al giro di boa in commissione bilancio alla Camera. Questa mattina sono stati presentati gli emendamenti del governo e dovrebbero essere chiare in queste ore quelle modifiche chieste da sindacati e partiti. E allora cominciamo proprio facendo il punto sulle novità con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Procedono comunque a singhiozzo i lavori nelle commissioni bilancio e finanze, si attendono ancora infatti gli emendamenti più importanti, quelli relativi all'indicizzazione delle pensioni e franchigia sulla prima casa ai fini ICI. C'è ancora un problema di copertura a quanto si apprende dietro al ritardo nella presentazione delle modifiche. Per metterle a punto si stanno incontrando sempre a Montecitorio il Premier Monti, il Vice Ministro all'Economia Grilli, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda. Quanto alle altre novità della manovra, ricordiamo l'esclusione dei taxi dalle liberalizzazioni, la scomparsa dei consigli provinciali entro il 31 marzo del 2013. Sempre sui costi della politica è stato deciso però che nel decreto non entreranno i tagli alle indennità di deputati e senatori, saranno le Camere nella loro autonomia a decidere in tal senso. Il capitolo sulla tracciabilità dei pagamenti, quindi, un emendamento innalza il limite dei contanti a 980 euro per quelli erogati dalle pubbliche amministrazioni per le pensioni. Sentiamo allora su questo il giudizio di Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, intervenuto a Radio 24 a Salvadanaio. Il governo ha ritenuto attraverso queste norme in approvazione alla Camera di intervenire, ecco, anche nelle abitudini, ma per porci comunque al cospetto dell'Europa in una misura, ecco, non così svantaggiata rispetto a quella in cui siamo oggi. C'è però da fare anche un appello agli intermediari, perché è chiaro che nel momento in cui non stanno parlando di aziende ma parlano di cittadini, di pensioni basse, mi aspetto che le poste, le banche, il sistema bancario inventino o comunque possano promuovere prodotti che siano più, non dico competitivi, addirittura direi gratuiti. Lei lo vede concretamente possibile un mondo in cui la banca non si fa pagare nulla per erogare un servizio? Diciamo che la banca può anche svolgere qualche ruolo sociale. Sul tema delle pensioni intervento intanto il Parlamento del Ministro del Welfare Elsa Fornero, che ha spiegato lo spirito alla base della nuova riforma. Sentiamo il Ministro. La riforma delle pensioni, che nella mia ottica non doveva condurre a riduzioni delle pensioni, ma condurre a maggiore lavoro, chiedere alle persone di lavorare di più e fare in modo soprattutto che negli anni a venire anche i giovani, le donne, gli anziani possano lavorare di più. Dalla Fornero infine una proposta, un prelievo del 25% come contributo di solidarietà per le pensioni sopra i 200.000 euro. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Dall'INPS intanto oggi sono arrivati anche altri dati, sono stati i giovani più penalizzati dalla crisi nel 2010, secondo quanto risulta dal bilancio sociale dell'INPS. I lavoratori under 30 sono diminuiti del 9,2%. La classe più colpita con un crollo dei contratti è quella degli under 19, quella tra i 20 e i 24 anni. A raffigurare l'Italia anche sul fronte, come sentivate, delle aspettative di vita di cui si parla in questi giorni per quanto riguarda le pensioni e anche il rapporto salute. La speranza di vita in Italia è una delle più alte al mondo. Aumentano gli anziani che vivono sempre più a lungo. Per le donne l'aspettativa di vita è mediamente di 6 anni in più rispetto agli uomini, per i quali l'età media è pari a 76 anni. È quanto emerge dalla relazione sullo stato di salute del paese 2009-2010. Arrivati allo storico traguardo dei 60 milioni di abitanti, risulta che tra questi il 20,3%, ovvero 1 su 5, ha più di 65 anni. La vita si allunga anche grazie alla maggiore efficacia delle cure di malattia è un tempo solo fatali. La riduzione della mortalità per tumori, ad esempio, che ha avuto inizio a partire dagli anni 90, è di circa il 20% tra gli uomini e del 10% tra le donne. La prima causa di morte per gli uomini è rappresentata comunque dalle malattie del sistema circolatorio, mentre tra le donne si confermano come principale causa di morte le malattie cardiovascolari seguite dai tumori. Cattivi stili di vita possono però mettere seriamente a rischio lo stato di buona salute degli italiani, tra questi in particolare pigrizia e fumo. Ogni anno nel nostro paese muoiono infatti dalle 70 alle 83.000 persone per colpa delle sigarette e oltre il 25% di questi decessi avviene tra individui dai 35 ai 65 anni di età. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo al fronte politico. Sancito ormai pare la rottura tra PDL e Lega. Elisabetta Fiorito. Si tramonta l'alleanza PDL e Lega, ormai ferri corti però anche quella tra IDV e PD. Il leader della Lega Umberto Bossi ha sancito la fine dell'alleanza con Silvio Berlusconi, è finita, sta con i comunisti, ha detto Bossi, mentre il Carroccio rilancia anche sulla secessione e prefigura una nuova moneta padana. Dal PDL tocca al governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, rispondere, dobbiamo lavorare per creare le condizioni quando si andrà ad elezioni nazionali per rinnovare l'alleanza PDL e Lega, magari allargare ad altri soggetti. Nel centro-sinistra, come accennava Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori, presenta la contromanovra al governo Monti, mentre il PD è in difficoltà sulle pensioni e allora incontra i sindacati, CGL, CISL e UIL nella sede del partito. Distinguo di Giorgio Merlo, che è contrario al partito di lotta e di governo, il PD è compatibile con la piazza, risbatte al responsabile economico Fassina, ma no, al ritorno al passato. Per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito e saluto Stefano Folli del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Hai sentito ancora una volta le tensioni politiche, quanto pesano, quanto peseranno nel cammino ormai che sentivamo della manovra? Guarda, in questo momento io credo che le tensioni politiche non incidano più di tanto, semmai incidono le tensioni sociali, la difficoltà di, come dire, di far passare una manovra che certamente ha un costo sociale, ma sul piano politico, strettamente politico, quello che stiamo vedendo è qualcosa che riguarda una fase molto successiva, non sono tali da incidere sul cammino in questo momento del governo. Poi certo vedremo la Lega dove andrà, vedremo un Partito Democratico che non potrà avere un futuro all'interno di questo assetto attuale che era stato costruito per avere un'alleanza con l'estrema sinistra, con Di Pietro, che adesso deve rimodulare tutta la sua prospettiva, però appartiene a una fase di riassestamento del sistema politico che ha tempi medio o medio lunghi. L'interlocutore del governo sono più i sindacati in queste ore secondo te? Sì, appunto, ho detto le tensioni sono soprattutto sociali e quindi i sindacati sono in prima linea e naturalmente anche loro dovranno, credo, cambiare qualcosa nella loro mentalità e nella loro cultura, perché è chiaro che prevale in questo momento la necessità assoluta per noi di risanare i conti, di restare agganciati all'Europa. Assistiamo a modifiche in queste ore della manovra, anche se ricordiamo l'input è i saldi però restano invariati. Secondo te sarà una cosa veloce o dovremo assistere di nuovo a continui balletti? No, deve essere una cosa veloce assolutamente, e da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda iniziale, io dico che la politica sostanzialmente si rende conto in questo momento che è necessario fare presto. Poi naturalmente, ripeto, c'è la Lega che ha la sua posizione e c'è anche Di Pietro che ha una posizione diversa, però sono i due punti estremi che si affidano a un'altra logica che non è quella che in questo momento tiene insieme questa vasta maggioranza che non è dichiarata, che non è ufficiale, che non è politica, ma che in questo momento io credo si rende conto che non è ammissibile un ritardo. È ammissibile una certa trattativa, la possibilità di correggere alcuni aspetti della manovra, ma non è possibile utilizzare i vecchi strumenti del piccolo cabotaggio, del rinvio, perché i tempi non lo consentono. E quindi oggi sapremo cosa succederà, grazie a Stefano Folli. E vediamo anche che succede però intanto in Europa. At this moment I just want to highlight the historic agreement. I passi fatti non bastano, così lo sentite, si è espresso il Presidente della Commissione europea Josep Barroso parlando questa mattina al Parlamento europeo di Strasburgo, riferendo sul summit dei leader europei. Perché? Cosa accadrà ora, viste anche le tensioni con la Gran Bretagna? Sentiamo. A quattro giorni dal vertice europeo del 9 dicembre spuntano i primi dubbi. La stampa anglosassone è stata presto negativa, perché poco si è fatto per dare alla zona euro un vero parafuoco finanziario. Oggi cauto è stato anche il Presidente della Commissione, José Manuel Barroso, che a Strasburgo ha sottolineato l'assenza di misure per rilanciare l'economia. In Finlandia e in Germania, ma anche in Irlanda, emergono dubbi giuridici su un'intesa che ha visto l'isolamento della Gran Bretagna e un accordo intergovernativo a 26, o meglio a 17 più, anziché una vera riforma dei trattati. Leda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. C'è una notizia dell'ultima ora battuta in questo istante dalle agenzie, ve la leggiamo così come è stata battuta. Due persone sono state uccise poco fa in piazza Dalmazia a Firenze durante una sparatoria, ci sarebbero anche dei feriti sul posto, ci sono le forze dell'ordine. La piazza in queste ore è molto frequentata, cercheremo naturalmente di raccontarvi qualcosa in più. Nel frattempo andiamo invece a Torino, all'Unione Industriale di Torino, in corso un incontro tra Fiat e sindacati per raggiungere l'accordo per il nuovo contratto per gli oltre 86.000 dipendenti del Lingotto. Ieri Fiat ha fatto sapere che il tempo della trattativa è scaduto. Come sta andando? Così una pausa, riferito Di Mauro della Fismic. Abbiamo fatto le considerazioni conclusive sull'assenteismo, dove il problema è praticamente risolto con l'accordo che abbiamo raggiunto settimana scorsa, e inoltre abbiamo chiesto di definire la misura salariale per tutti i lavoratori, compresi quelli in cassa integrazione, per il 2012. L'azienda si è riservata di darci una risposta conclusiva e tra poco arriveremo finalmente alla conclusione del negoziato. E dunque, su che basi si arriverà alla conclusione? Io saluto Andrea Malan, buongiorno. Buongiorno, sì, dunque dopo il rinvio di ieri dovuto formalmente all'assenza della delegazione della UILM, sembra che oggi sia la giornata buona per l'accordo che, ricordiamo, dovrebbe coinvolgere 86.000 dipendenti del gruppo Fiat. L'azienda appunto aveva già fatto sapere ieri che aveva chiuso il confronto al punto in cui erano stati definiti i testi. Il dettaglio non è noto, lo sarà sicuramente più tardi, se effettivamente si arriverà a un'intesa in giornata. Ricordiamo che la fretta del Lingotto è legata anche a una coincidenza di cronaca, nel senso che Sergio Marchionne, che ieri era ancora negli Stati Uniti, sarà domattina a Pomigliano per la presentazione alla stampa internazionale della nuova Panda prodotta nello stabilimento campano, ed è indubbiamente sarebbe indubbiamente un fatto positivo poter presentare appunto anche il nuovo contratto. E naturalmente Pomigliano ci sarai anche tu, e quindi sentiremo anche da te come andrà. Grazie nel frattempo. Andrea Malana, domani. Per rilanciare la crescita e promuovere lo sviluppo nazionale è indispensabile che le imprese intensifichino gli investimenti nel nostro paese, soprattutto nel Mezzogiorno. Parole intanto questa mattina del capo dello Stato Giorgio Napolitano in un messaggio per la presentazione del primo treno superveloce sulla linea Napoli-Roma. Ne parleremo tra poco. Le 13:17 minuti, le notizie di oggi di GR24, slittano le liberalizzazioni per i taxi, addio alle province a marzo 2013, in arrivo un contributo di solidarietà per le pensioni più alte, queste le novità allo studio per la manovra. Il patto salva euro non basta, così intanto il Presidente della Commissione Europea Barroso accusa e rilancia. Arrestato Mario Valsecchi, ex direttore finanziario del San Raffaele, a Milano nuove perquisizioni anche nell'inchiesta Penati. Italiano il treno più veloce al mondo, il presidente Napolitano dice le imprese investano di più nel nostro paese. E riprendiamo come sentivate dalle vicende milanesi. Mario Valsecchi, ex direttore finanziario del San Raffaele, è stato arrestato questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sul dissesto dell'ospedale. Le accuse sono associazione per delinquere e bancarotta. Tra i nuovi indagati ci sono anche due imprenditori di Vicenza che avrebbero utilizzato lo stesso meccanismo dei costruttori Zammarchi, ossia la sovraffatturazione di costi a carico dell'ospedale e la retrocessione dei soldi agli ex vertici del San Raffaele tramite buste di contanti e bonifici per un valore di 4 milioni di euro. Nuove perquisizioni a Milano anche per l'inchiesta che ha travolto l'ex sindaco di Sesto San Giovanni, Filippo Penati. Non più soltanto la controversa vendita nel 2005 del 15% della Milano Serravalle dal gruppo Gavio alla provincia di Milano, guidata allora da Filippo Penati, ma anche possibili corruzioni di incaricati di pubblico servizio nel 2008-2009 nella gestione ordinaria degli appalti della società e di due sue controllate, nonché sospetti di una stecca sull'acquisto del terreno del gruppo Cavassi per la nuova sede della Milano Serravalle ad Assago Milano Fiori. Sono almeno 6 i nuovi indagati. Tra loro il portavoce, la segretaria del PD, Filippo Penati, Franco Maggi e Claudia Cugola. L'immobiliarista Matteo Giuseppe Cavassi e l'ex amministratore delegato della Milano Serravalle, Massimo Di Marco. I militari della Guardia di Finanza di Milano hanno anche effettuato una decina di perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto sistema Sesto. Intanto i carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone, in un'altra operazione, hanno eseguito arresti in 5 regioni italiane: Puglia, Lombardia, Campania, Veneto e Lazio. Associazione per delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti, corruzione e falsità ideologica commessa in atti pubblici. Queste le accuse a carico degli arrestati. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Nel cuore di Milano c'è una concentrazione impressionante di domicili fiscali di società. Il sospetto è che molte di loro contino sulla difficoltà del fisco di controllarle tutte per sfuggire ai controlli anti-evasione a farla franca. La conferma è che nel 2010 l'Agenzia delle Entrate ha disposto il cambiamento di domicilio in oltre 20 casi, mentre sono in corso verifiche nei confronti di 50 soggetti e sono previste per l'anno prossimo indagini specifiche nei confronti di altre 280 società. Caso eclatante, un ufficio con ben 75 domicili fiscali. In effetti, soltanto a gennaio 2011 nel centro di Milano si trovava circa un terzo delle sedi legali del totale delle società, circa 32.500 soggetti, di cui quasi 27.500 società di capitali. L'Agenzia delle Entrate ha analizzato la popolazione delle aziende e ha scoperto addirittura una concentrazione sospetta di domicili in alcune strade e palazzine. In via Monti, ad esempio, ne erano presenti oltre 830, in via Boccaccio oltre 560, in Corso Venezia oltre 500. Sommando i dati di 20 vie cittadine si contano quasi 8.000 domiciliazioni. Tra il 2010 e i primi mesi del 2011 ci sono stati oltre 360 controlli, soprattutto attraverso accessi simultanei, cioè fatti in un'unica giornata presso i domicilianti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una vittima questa mattina nel crollo provocato da un'esplosione per una fuga di gas a Montalto Marche, in provincia di Ascoli Piceno. La vittima è una donna che si trovava in un edificio accanto alla palazzina devastata dall'esplosione. Un uomo e una donna sono stati estratti vivi. E ancora la cronaca: sono stazionarie le condizioni dei 7 operai feriti ieri nel crollo dell'impalcatura allestita per il concerto di Jovanotti al Pala Trieste, nel quale è morto lo studente operaio Francesco Pinna di 20 anni. Il più grave rimane ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Poteva essere una strage, hanno fatto sapere questa mattina dalla questura dopo i controlli. Rinviato intanto il tour di Jovanotti. A partire invece è ancora uno degli spettacoli più attesi in TV, è stato presentato questa mattina Sanremo, Marta Cagnola. E parte con una sorpresa che è stata data a pochissimi istanti fa da Gianmarco Mazzi, assolutamente in attesa, nemmeno Gianni Morandi lo sapeva e si è commosso. Ci sarà Adriano Celentano a Sanremo 2012, non si sa ancora in che ruolo e in che veste, però sicuramente il molleggiato ci sarà. Intanto Sanremo 2012 si fa moderno, diventa social, trattandosi di Sanremo non modernissimo, quindi al momento di Twitter si affida ancora a Facebook, ma chiunque potrà candidarsi postando un video appunto sul social network. Le date 14-18 febbraio, il giovedì serata tributo Viva l'Italia con cantanti stranieri. I nomi dei cantanti in gara verranno diffusi il 10 gennaio. Sto ascoltando centinaia di canzoni, ha detto Morandi. Il cast, l'unico nome citato, le trattative con Tamara Eccleston. Morandi, Buttalini, piacerebbe che Cozzalone, ma non si sa in che veste. E per ora è tutto. E grazie a Marta Cagnola. E restiamo però nel mondo della TV, restiamo a parlare di Rai. Potrebbe arrivare oggi infatti la svolta per il TG1. Sarà il giorno dell'addio di Minzolini, questo lo chiediamo ad Alessandra Schepisi. Sì Anna, è così, da oltre due ore è in corso un consiglio di amministrazione straordinario della RAI, dal quale per ora nulla trapela. Sul tavolo sappiamo che c'è un'unica delibera che prevede sia il trasferimento del direttore del TG1 Minzolini, sia la nomina di Alberto Maccari come suo successore fino al 31 gennaio. Una riunione sicuramente carica di tensione, sulla quale pesano i veti incrociati dei consiglieri e anche la minaccia del presidente della RAI Garimberti di dimettersi nel caso in cui Minzolini non venga trasferito. Inoltre, a spaccare il consiglio anche questa soluzione temporanea proposta dal direttore generale lei, e cioè la nomina di interim fino al 31 gennaio 2012 di Alberto Maccari, che è già vicinissimo alla pensione, una nomina considerata debole da alcuni consiglieri che avevano invece chiesto di scindere la rimozione di Minzolini dalla sua successione. Il nodo e poi anche l'interpretazione della legge 97 del 2001 sugli effetti del giudicato penale per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Ricordiamo che infatti Minzolini è stato colpito dal rinvio a giudizio per peculato dal gruppo di Roma con l'accusa di aver utilizzato i soldi della RAI per spese private. Beh, la legge dice che in questi casi l'azienda deve spostare il dipendente ad un ufficio diverso oppure metterlo in aspettativa, ma su questo punto non tutti i consiglieri concordano, quindi staremo a vedere come si concluderà questo difficile CDA. E da Roma è tutto. E grazie ad Alessandra Schepisi. Un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato nella prima parte del giornale: la sparatoria poco minuti fa a Firenze in piazza Dalmazia, si parlava di due morti, ci sarebbe anche un terzo uomo ricoverato gravissimo in ospedale. Secondo chi ha telefonato al 118 sarebbe stato notato un furgone nei pressi del punto di piazza Dalmazia a Firenze da cui sono sentiti gli spari. Il veicolo si sarebbe poi allontanato. I tre corpi rimasti della piazza, dove c'è un mercato, sarebbero di tre extracomunitari, forse senegalesi. Gli spari hanno suscitato paura tra i passanti che si sono rifugiati nei negozi. E restiamo a Firenze, dove questa mattina c'è stata una maxi operazione contro invece la camorra. C'è la camorra dietro il gruppo criminale sgominato questa mattina a Firenze, un clan operativo in Toscana dalla metà degli anni Ottanta. 31 persone indagate, 7 arresti, di cui 4 in carcere, 3 ai domiciliari, 9 milioni di euro sequestrati, oltre 20 milioni di evasione fiscale. Soldi che arrivavano da un giro di estorsioni, tentate corruzioni, riciclaggi e reati societari messi in atto mediante il sistematico uso della forza e dell'intimidazione. La modalità era sempre la stessa, erano i piccoli imprenditori i bersagli. Dopo l'offerta iniziale di aiuti e sostegni economici, il clan ne assorbiva completamente la gestione con contabilità principalmente gestite in nero mediante violenze e minacce. Credevano di poter fare tutto, compreso gestire le società quasi completamente in nero. Fondavano società esistenti solo su carta e mettevano fatture false, che a loro volta contabilizzavano generando falsi crediti di imposta. Le società erano intestate a prestanome che per questo compito percepivano dagli 800 ai 1500 euro al mese e avevano una durata media di 2 anni. Poi venivano liquidate e sostituite con altre dello stesso tipo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si chiama Italo, è il primo treno ad alta velocità privato, è stato presentato a Napoli questa mattina, dove c'è Romolo Napolitano. È da poco iniziata la presentazione di Italo, il treno della NTV, Nuovo Trasporto Viaggiatori, la prima società europea privata dell'alta velocità, da Punzo della Valle e Montezemolo. 90 milioni di investimenti per 25 treni che viaggeranno a 300 km all'ora da Salerno a Torino e da Roma a Venezia, passando per Napoli, Firenze, Bologna e Milano. In apertura è stata letta la lettera del presidente Napolitano. Montezemolo ha evidenziato la scommessa fatta su Sud, dove sono le officine della NTV. Facciamo finta che nessuno ci ha messo i bastoni fra le ruote, ha invece dichiarato Della Valle, riferendosi alla polemica con Trenitalia, futuro competitor della NTV. Per ora è tutto, linea allo studio. Grazie a Romolo Napolitano, naturalmente ci risentiremo nelle prossime edizioni. Un passo storico questa mattina per le Nazioni Unite, la bandiera palestinese è stata issata poco più di un'ora fa, a mezzogiorno, per la prima volta nel piazzale davanti all'UNESCO a Parigi. Presente anche Abu Mazen, presidente dell'autorità nazionale palestinese. Al-Qaeda per il Maghreb islamico, la branca nordafricana dell'organizzazione terroristica, ha pubblicato oggi su un sito internet islamista 2 foto di 5 europei rapiti in Mali il mese scorso. Gli europei sono 2 francesi presentati come spie rapiti in un'occasione e altre 3 persone di nazionalità ancora ignota. Le 13:28 minuti, è il momento di parlare del calcio prima di chiudere. Eppur si muove. L'Inter, che stasera torna a Genova per il recupero della partita rinviata per l'alluvione, cerca di consolarsi col bicchiere mezzo pieno, come il ritorno al gol di Pazzini con la Fiorentina e come il ritorno in panchina di Forlan, ormai guarito dal suo infortunio. In più, e non guastano in un ambiente a caccia di autostima, le buone parole di Massimo Moratti. È anche un premio al lavoro di questo periodo qui di Ranieri, che mi sembra che abbia lavorato sia psicologicamente che realmente sul campo in una certa maniera, quindi insomma ovviamente una vittoria doveva arrivare, insomma. Ma stasera è un'altra sera e dal bicchiere mezzo vuoto escono le ultime gocce amare di una stagione senza luce: il nuovo infortunio a Sneijder, il capo di Ranocchia, i dubbi su Milito, che un giorno c'è e l'altro no, tanto che Ranieri frena sugli entusiasmi. Andiamo avanti per la nostra strada, che abbiamo visto che non è così libera da incidenti, per cui zitti e pedalare. La buona notizia, chiamiamola così, è che tutto l'incasso della serata verrà devoluto alla popolazione colpita dall'alluvione. Dopo 40 giorni le ferite sono ancora aperte. Dario Ceccarelli, Radio 24 e Il Sole 24 Ore. E Roberto Scaltritti in regia. Da Anna Migliorati ancora buon pomeriggio. GR24 vi aspetta con tutti gli ultimi aggiornamenti alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.